Signore, tu hai fatto tanti miracoli nella vita, incontabili. Ma il più grosso dei miracoli tuoi è questo, che tu, a noi, mezze cartucce, a noi, povere creature, faccia una proposta così grande. È un miracolo questo, dell'amore di Dio. Che è proprio incorreggibile, quell'amore di Dio è infinitamente grande e non si dà mai per vinto. È sempre vincitore. Il suo amore in gara con il nostro vince sempre. Vi ho detto che se anche Giuda si fosse pentito, sarebbe un grande santo da mettere insieme a Pietro, Giovanni, Filippo, Tommaso, Andrea, Giacomo, Taddeo. Tutti. Anche lui sarebbe il santo apostolo confondatore della Chiesa, se si fosse fidato dell'amore invincibile e incorruttibile di Cristo Signore. Che miracolo è questo? Sì, sarebbe anche un miracolo se Gesù dicesse ad un ragazzo innocente, in gamba, che non ha mai commesso un peccato, e dicesse: ragazzo, su, sii perfetto come il Padre Celeste. Sì, un grande miracolo, ma il più grande è che lui si rivolga a me, a te, a noi peccatori. Tanto peccatori che nessuno di noi saprebbe tirare le somme e dire quanti peccati ha commesso nella vita. Che tu dica: sii perfetto, fatti santo, io ti do una mano, io ti rinnovo la vita. Lo dica proprio a noi, questo è un miracolo che li supera tutti, anche più grande che risuscitare un morto. Sappiamo che Gesù Cristo ha risuscitato diversi morti, sappiamo che San Francesco di Paola, fondatore dei Frati Minimi della Carità, ha risuscitato 9 morti nella sua vita, 9. Ma il miracolo più grande che ha fatto San Francesco di Paola non è la risurrezione di 9 morti e la guarigione di centinaia e centinaia di ammalati gravi. È che lui è diventato santo da povero uomo mortale come tutti noi. Così Gesù Cristo, per la cui forza San Francesco di Paola ha risuscitato quei morti, Gesù Cristo è grande quando risuscita il ragazzo della vedova di Nain che veniva portato al cimitero, quando risuscita la figlia di Gairo morta da qualche ora e quando risuscita Lazzaro morto da 4 giorni e già in putrefazione. Grande, ma assai più grande quando a un peccatore disse: alzati e cammina, ti sono rimessi tutti i tuoi peccati. Oh, è molto più grande il miracolo di una conversione che non della risurrezione di un morto, di 9 morti, di tutti i morti. La conversione di un peccatore che passa dagli artigli di Satana alle braccia di Cristo è un miracolo più grande che la stessa creazione di tutto il firmamento, di tutti gli astri, di tutti i pianeti, di tutta la terra, di tutto il creato. Dio è grande nel creato, immensamente grande nella conversione di un'anima. Che stupore deve prendersi, che estasi, amici, questa proposta è rivolta a me e a te, ciascuno in prima persona. Su, alzati, cammina, non strisciare più, non pestare più sull'orlo della dannazione, smettila di fare il gradasso, di scherzare con il fuoco eterno, e sii perfetto